Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Iniziamo subito questa settimana con il nostro sommario, ma prima un saluto a Carmelo Lauricelli in regia, alla parte tecnica e come sempre alla bravissima Laura Vanossi in redazione. Chi ha paura del colesterolo alzi la mano. Intelligenza verde. Impara l'arte e mettila da parte. Bene, oggi iniziamo la settimana occupandoci di un tema che interessa molti di noi: il colesterolo, una sostanza presente nel nostro organismo, lo sappiamo, ha delle funzioni ben precise, ma sappiamo anche che può trasformarsi in un fattore di rischio importante per la nostra salute. Se infatti è presente in eccesso, diventa una minaccia seria per le arterie e per il cuore. Allora oggi cercheremo di capire perché i livelli di colesterolo aumentano, se sia sempre colpa della dieta o ci sia invece una sorta di predisposizione. Parleremo naturalmente anche di terapia e di ricerca, perché anche il colesterolo è finito sotto la lente dei ricercatori. Intanto voi mettetevi subito in azione con il nostro numero verde che conoscete molto bene, 824 0024. Oggi in studio con me il professor Francesco Saverio Dioguardi, professore associato in medicina interna alla cattedra di nutrizione clinica dell'Università di Milano. Professore, bentornato. Nicoletta, sono contento di essere ancora qui. È una piccola cattiveria parlare di colesterolo dopo le feste natalizie. Siamo pronti. Abbiamo lasciato infatti qualche tempo, qualche giorno, e adesso possiamo, ormai 18 di gennaio, le feste le abbiamo alle spalle, no? Giusto il tempo di aver incominciato a pentirci di quello che abbiamo mangiato. E noi siamo qua. E soprattutto siamo qua insieme a lei per scoprire insieme il pianeta colesterolo. Il suo compito oggi sarà da un lato quello di farci conoscere le strategie migliori per tenere il colesterolo ai livelli di sicurezza, quindi in altre parole ci spiegherà come prevenire, sempre che questo sia possibile, l'ipercolesterolemia. Allora, intanto ci sono delle regole generali che valgono per tutti, non soltanto per il colesterolo fra l'altro, ma per tutte le condizioni metaboliche, cioè imparare a mangiare solo quello che ci serva, quando ci serva, e fare attività fisica. E lì non si scappa. Eliminare o ridurre al minimo le cattive, tra virgolette cattive, perché si può discutere, abitudini. Bere un bicchiere di vino è bene, bersi una bottiglia di vino non è tanto bene. Certo. Fumare fa sempre male. Vivere a 1000 metri d'altezza in un altipiano ricco di boschi è molto meglio che vivere in una città come Milano che è piena di inquinamento. Non tutto si può fare, dobbiamo imparare a convivere con le nostre necessità. Senta, professore, però oggi vogliamo anche occuparci di chi ha già un problema con il colesterolo, quindi ci rivolgiamo ad un pubblico molto ampio, almeno i dati fotografano una situazione, devo dire, un po' preoccupante. Ecco, questo è in effetti uno degli aspetti più complessi. Esistono due categorie, generalizzando molto, di persone che hanno problemi di colesterolo. La prima è quelli che hanno il colesterolo alto perché in effetti mangiano in maniera errata. Questo è un grosso problema di cultura, di ordine generale, di informazione, di pazienza e anche di perseveranza da parte di coloro che vengono informati, perché se è vero che molte persone non sanno che alcuni alimenti sono troppo ricchi di calorie, attenzione, il colesterolo non viene soltanto da alimenti ricchi di per sé di colesterolo, ma viene dal mangiare troppe calorie, e le troppe calorie, se non vengono bruciate dai muscoli, possono anche finire in colesterolo. Questo ci introduce la seconda parte di persone, le quali, quando anche si attenessero a regole dietarie estremamente attente, fossero magrissime, geneticamente sono predisposte a mandare verso la sintesi di colesterolo quantità fisse di quello che mangiano, e quindi hanno un colesterolo più elevato della norma e non possono controllarlo solo con la dieta. Quindi dieta per la prevenzione, farmaci in alcuni casi, meno male ci sono delle strategie strategie terapeutiche, di questo parleremo anche nel corso della trasmissione, professore. Assolutamente, farmaci ci si deve ricorrere solo nei casi in cui siano davvero necessari. Allora, professore, però, tanto per dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori, diciamo che c'è colesterolo e colesterolo, non tutto il colesterolo che circola nel nostro organismo è pericoloso. Inizierei un po' da questa distinzione che in qualche modo ci fa rappacificare con questa sostanza che, al di là della sua cattiva fama, uno dice colesterolo e uno pensa subito a qualche cosa di cattivo e nocivo, ha una sua funzione e anche qualche merito. Allora, intanto merito di voi giornalisti, devo dire molto più che di noi medici, è stato introdurre il concetto del colesterolo buono e il colesterolo cattivo, di cui poi parleremo. Il colesterolo, va detto, è una sostanza che deve essere presente nel nostro organismo, e la sostanza di cui sono i mattoncini, via, di cui sono composte le pareti delle cellule di tutto il nostro corpo, dal cervello al fegato, dal rene al cuore, la membrana delle cellule è fatta di colesterolo. Quindi noi abbiamo bisogno di colesterolo. Col colesterolo facciamo gli ormoni, il colesterolo ci serve. Il problema è che quando il colesterolo si accumuli nel sangue, il tempo che passa tra lo smaltimento di questo colesterolo o l'utilizzazione del colesterolo può essere così lungo da permettergli di depositarsi in placche all'interno della parete dei vasi, ridurre così l'apporto di ossigeno, che è il principale nutriente, e di altro cibo ai tessuti, e strozzarli sostanzialmente, quindi mandarli in grave sofferenza. Quindi è corretto pensare al colesterolo come una sostanza vitale, perché serve. Assolutamente. E però bisogna sottolineare il dato che se è troppo, se è in eccesso, se non riusciamo a smaltirlo, lei diceva se passa nel sangue, se è presente nel sangue, e da quanto diceva lei mi veniva in mente di quell'ospite, no, che si siede e poi non va più via, non si riesce più a scollare. Ecco, purtroppo è così. Ecco, se si accomoda e resta a lungo, ecco lì, e in quantità eccessiva diventa dannoso. Io volevo chiedere ai nostri ascoltatori a casa a quanto viaggia il loro colesterolo e se l'hanno controllato, perché ci sono anche tante persone che il colesterolo proprio non lo controllano mai. Ci sono tante persone che non controllano non solo il colesterolo, ma anche la glicemia, anche i trigliceridi, e per avere un quadro del modello di funzionamento del nostro metabolismo, queste cose, tutte e tre, vanno prese in considerazione, non solo il colesterolo. Allora, 800 24 0024, se volete restare con noi, messaggi al 349 238 6666, aspettiamo le vostre telefonate e anche i vostri numeri, perché oggi in fondo daremo i numeri, ma non solo, professore. Una mela al giorno. E noi lasciamo da parte per un attimo il colesterolo per parlare di piante. Le ammiriamo, le curiamo, e c'è anche chi timidamente sottovoce, con il timore di essere ascoltato da orecchie indiscrete, le avvicina con parole affettuose mentre se ne prende cura. Un saluto, una coccola, un incoraggiamento. Bene, se sino a qualche tempo fa questo poteva essere considerato un po' bizzarro, oggi la prospettiva cambia radicalmente, e il merito è di una scienza che si chiama neurobiologia vegetale. È una scienza che studia l'intelligenza delle piante, l'intelligenza verde, se così possiamo chiamarla. Ne parliamo oggi per la gioia di chi non ha mai creduto sino in fondo che le piante si limitassero a vegetare, insieme al professor Stefano Mancuso dell'Università Agraria di Firenze, ideatore dell'INV, che è il laboratorio di neurobiologia vegetale. Pensate, il primo al mondo specializzato sull'intelligenza, sulle capacità comunicative e potenziali delle piante. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, allora le piante ci sentono? Non è un'impressione della tribù dei pollici verdi? Ah, no, no, assolutamente. Le piante hanno i nostri stessi cinque sensi, potremmo dire, più un'altra serie abbastanza numerosa di sensi che mancano normalmente agli animali. E il fatto è anche facilmente intuibile. Lei pensi che le piante, a differenza degli animali, appunto, non si spostano, si muovono molto, ma non si possono spostare dal luogo in cui sono nate, e quindi non hanno a disposizione quella che è la prima e più importante reazione alle novità degli animali, che è la fuga. Quando un animale si presenta un cambiamento di ambiente o un potenziale pericolo, la prima cosa che fa è scappa, poi ci pensa. Le piante non possono fare questo, quindi sono obbligate, sì, a sentire con anticipi

lei sa che il principe Carlo d'Inghilterra è stato più volte beffeggiato è preso in giro perché parla alle piante. Allora proprio la Royal Horticultural Society, che è una delle più prestigiose accademie, diciamo società del mondo che si occupa di piante, per fare un piacere al principe Carlo ha fatto un esperimento e ha messo delle piante di pomodoro con accanto dei registratori che mandavano in continuo delle voci di persone che leggevano dei libri. E una di queste era la voce di una nipote di Charles Darwin che leggeva pezzi tratti da un libro dell'antenato. E il risultato è stato abbastanza sorprendente, nel senso che le piante che sono state trattate in questa maniera, quindi con la voce, hanno mostrato una crescita superiore significativamente a quelle delle piante invece a cui nessuno parlava, per la gioia del principe Carlo. Però va detto che spesso bisogna guardare a questi risultati con un minimo di attenzione, perché quando noi normalmente tendiamo a pensare che una pianta che cresce di più, cioè che è più lunga, è una pianta che sta meglio, mentre invece spesso non è così, cioè le piante, l'allungamento delle piante è una risposta allo stress, cioè le piante tendono ad allontanarsi dal luogo dello stress. Quindi meglio basse, professore, meglio bassa e cicciotta che lunga e magrolina. Sì, molto meglio, ecco. Di sicuro, per le piante. Grazie professor Mancuso, buona giornata. Arrivederci. Grazie. Buongiorno. Pronto soccorso. Invece, professor Dioguardi, basso e cicciottello alto e secco per il colesterolo, riprendendo un po' le nostre piante? Guardi, a parte che le piante contengono poco colesterolo di solito, ma a prescindere, non puoi prevedere in base al modo in cui uno si presenti come sia la situazione. Per esempio, la ricerca più moderna, e noi in Italia abbiamo un grande scienziato che si occupa di tessuto adiposo, sta aiutandoci a comprendere come, per esempio, l'efficienza del tessuto adiposo nel tirare dentro certe sostanze, sia essi trigliceridi, sia esso in parte il colesterolo, possa avere un effetto di pulizia, tra virgolette, ovviamente, del sangue. Quindi non è detto che una persona con un po' più di tessuto adiposo abbia necessariamente un colesterolo più alto rispetto a una persona più magra. Professore, abbiamo scoperto con lei molte cose del nostro colesterolo, sappiamo che è utile, abbiamo detto vitale, perché senza colesterolo non potremmo vivere, abbiamo detto anche, sappiamo che quindi in parte lo produciamo, in parte lo introduciamo con la dieta, si parla infatti di colesterolo endogeno ed esogeno, e sappiamo che quando i suoi valori superano i livelli di guardia può trasformarsi in un fattore di rischio. Ho fatto un breve riepilogo, ma tutti questi concetti devono essere personalizzati, soprattutto per quanto riguarda quello che viene chiamato il colesterolo cattivo. Assolutamente. Allora, fatti queste debite presentazioni del colesterolo nelle forme in cui tu hai detto, Nicoletta, il colesterolo cattivo, tra virgolette, è un bel modo per spiegare come esista una frazione del colesterolo. Mettiamola così: il colesterolo nel sangue viaggia in dei cestini. Sì. Questi cestini hanno le pareti che sono fatte di proteine. A seconda della qualità di queste proteine, il colesterolo ha maggiore o minore facilità ad appiccicarsi alla parete delle arterie e quindi ridurre il flusso di sangue. Quindi noi chiamiamo, abbiamo identificato in modo un po' pittoresco, ecco, come colesterolo cattivo quello che ha più facilità ad appiccicarsi alla parete delle arterie. Si chiama colesterolo LDL, che vuol dire low density lipoproteins, cioè lipoproteine a densità bassa. Quello buono, vuol dire quello che ci protegge, quello che addirittura stacca il colesterolo dalla parete, viene chiamato high density HDL. Quindi consideriamo buono questo che ha più facilità a mantenere il colesterolo nel sangue, e cattivo, tra virgolette, quello che ha più facilità ad appiccicarlo alla parete delle arterie. Ecco, questo così un po' per dare un minimo. Quindi meglio avere alto quello buono e basso quello cattivo. Quello è questo che dobbiamo cercare di fare. Assolutamente. Lo facciamo attraverso la dieta, ma anche attraverso il movimento. Parleremo insieme a voi di dieta, insieme al professore Eugenio Del Toma, che è in linea con noi. Professore, buongiorno. a voi. Presidente onorario dell'Associazione Italiana di Dietetica, spesso quando i livelli del nostro colesterolo sono alti, il medico ci suggerisce di metterci a dieta e quindi di ridurre alcuni alimenti, di preferirne altri o di far comparire sulla nostra tavola nuovi alimenti. Siamo tornati, adesso ci sediamo a tavola insieme al professore Eugenio Del Toma. Professore, buongiorno a lei. Professore, il colesterolo, i livelli di colesterolo sono altini. Il medico dice, signora stia attenta, si metta un po' a dieta. Cosa vuole dirmi? È una frase generica che vuole dire tutto o nulla. E cioè noi abbiamo bisogno di stare entro certi limiti con il colesterolo, però questi limiti sono legati all'avere più fattori di rischio, per cui a volte io ricevo telefonate terrorizzate da una persona che ha il colesterolo, non so, 230, ma dico, non vuol dire nulla da solo se poi lei c'ha un altissimo HDL, come usiamo oramai chiamarlo, quello buono, no? O viceversa se c'è una quota cattiva alta. Quindi la correzione del colesterolo con l'alimentazione è limitata, secondo me, in particolare ai borderline, a coloro che stanno così a metà, che poi hanno la pressione un po' più alta, sono fumatori, il medico gli dice ma lei ha solo 45 anni, 50, pensi quanti anni dovrà prendere sto farmaco, allora se si può un po' rimandarlo, ma non per non vedere il danno, no, ma per non sovraccaricare uno che magari prende anche altri farmaci. In questi casi l'alimentazione è fondamentale, perché ci consente o di rimandare il farmaco quando la situazione con gli anni peggiora tutto, oppure di prenderne il meno possibile, non perché i farmaci non siano preziosi, ma perché sempre devono essere distrutti dal fegato. Quindi certo, questi signori che hanno un po' borderline, al limite i dati, devono mangiare più verdure, perché nel campo vegetale non c'è il colesterolo, ma c'è un suo simile, un suo cugino che è completamente diverso, a noi non dà nessun fastidio, il colesterolo delle piante sarebbe, insomma, no? I fitosteroli. Ecco, allora questi ci aiutano. Questi ci aiutano, ma anche a aggiungere un po' dalla nostra dieta il pesce, ricco di grassi. Beh, che fanno bene. È tutta un'altra famiglia, però il pesce fa, non dobbiamo esagerare le virtù dei famosi omega 3, oramai li conosce chiunque, quelli fanno particolarmente bene alla fluidità del sangue, nel senso che agiscono sui trigliceridi. La loro azione sul colesterolo è modesta, mentre sono preziosi perché avere il sangue più fluido, sa, con gli anni che passano, le arterie non è che le possiamo dilatare tanto, però se ci facciamo passare dentro un liquido come il sangue estremamente fluido, i pericoli sono ovviamente molto minori che non si passa una miscela molto densa, capito? Professore, gli omega 3 hanno un'altra destinazione, ecco, per il colesterolo dobbiamo pensare semmai ai fitosteroli vegetali, che è divertente la faccenda, ma rubano un po' l'ormeggio, il sito di attracco del colesterolo nel nostro intestino, si mettono lì e gli rubano degli spazi, per cui noi assorbiamo meno colesterolo, poi c'è un'altra fase in cui lo recuperiamo, lo buttiamo con la bile nell'intestino, dove lo stesso ci si avvantaggia, e mentre noi questi fitosteroli non ci danno alcun fastidio. E allora oggi l'industria alimentare, quella intelligente che non vuole fare solo pubblicità, li sta anche aggiungendo a dei prodotti di uso così normale, in modo che noi possiamo arrivare a quel dosaggio che le grandi associazioni internazionali che si occupano di questo, il Food and Drug Administration americano, hanno riconosciuto validi per smussare, diciamo, questi valori che stanno sconfinando verso l'alto. Professor Del Toma, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Altrettanto a tutti. Grazie, buona giornata a lei. Andiamo a Treviso, c'è Paola. Buongiorno Paola. Sì, buongiorno a tutti e grazie a Radio 24 di queste trasmissioni, veramente. Ci racconti, Paola? Allora, io volevo fare quasi una domanda anche provocatoria. Io ho 47 anni e sono magra, però ho poca massa muscolare, insomma. Sì. Ho il colesterolo alto, cioè 280 di colesterolo. Allora, con poco aggiungendo, ho un'alimentazione assolutamente magra, secondo me non mangio formaggi, non mangio insaccati, eccetera. Mm. Aggiungendo un po' di cibo più integrale e camminando un po' di più, sono riuscita ad abbassarlo a 240. Sì. Il mio medico mi dice di stare tranquilla, che sono un po', che è solo un po' di stress e che ho alto il colesterolo buono. Allora, io ho due genitori ultra ottantenni che mangiano di tutto, non si preoccupano di nulla. Beh, con questi genitori ultra ottantenni io sarei serena. Bisogna forse anche abituarlo a mangiare, cioè, un po' tutto. Come mai? Paola, passo la parola al professor Dioguardi. Genitori ultra ottantenni in ottima salute, mangiano di tutto, questo è già anche una buona, no? Buona stella. Guarda, il caso di Paola ci permette di dire tante cose. Allora, in primis a Paola, avere due genitori oltre 80 anni è la migliore garanzia che si possa avere che quel colesterolo male non le fa. Primo punto. Secondo punto, c'è una cosa che va notata. Paola ha detto una cosa fondamentale per tutti. Introducendo un alimento, che è la crusca, tanto per dirne uno, il quale riduce l'assorbimento del colesterolo alimentare e impedisce il riassorbimento del colesterolo che il fegato butta fuori, questo sarebbe un discorso un po' più complesso, lei ha già ridotto in maniera molto consistente da 280 a 240 i suoi valori di colesterolo. Lei parla di colesterolo, non sappiamo quanta parte sia LDL, cioè quello cattivo, e quanta parte quello buono. Mi sembra che abbia detto però che l'HDL è molto alto. Benissimo. Quindi, come ha detto il professor Del Toma, peraltro, avere le HDL alte è di per sé protettivo, e quindi Paola ci ha insegnato che con un po' di attività fisica e mangiando qualche cibo integrale che riduce assorbimento si possono già di per sé portare i livelli di colesterolo a valori i più bassi possibili. Paola ha una condizione congenita, testimoniata dai suoi due genitori, per cui ha molta facilità a sintetizzare colesterolo, ma lei è adattata a questa situazione e quindi non dovrebbe portarle nessun tipo di problema, a meno che non si metta a fumare, a meno che non si ubriachi tutte le sere, cosa che non mi sembra, dato che mi sembra una persona... Perché fumo e alcol hanno una loro tossicità specifica che va a sommarsi a quella del colesterolo. Vediamo se ci insegna qualche cosa di prezioso Giuseppe, che ci chiama da Piacenza. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, io ho lo stesso problema della signora di prima, ho il colesterolo alto da quando avevo 20 anni, ce l'ho 260-270 con l'HDL a 47-48. Volevo chiedere al professore, che non riesco assolutamente a abbassarlo, e volevo sapere anche, ci sono alcuni prodotti che vendono nei centri commerciali, latticini, ci aiutano ad abbassarlo. Non ho una buona dieta io, perché continuo a mangiare, diciamo, non insaccati, però molto pane, molta pasta. Piacenza si mangia molto bene, e gli insaccati professore, che il piacentino nel mio cuore ha un ruolo del tutto particolare, ma due cose ci insegna questo signore. Allora, la prima cosa che va detta è che in alcuni casi togliere del tutto il colesterolo dalla dieta non solo non riduce il colesterolo, ma addirittura lo fa aumentare. Ovvero, ci sono delle persone nelle quali l'introduzione del colesterolo ha un effetto di inibizione della sintesi del colesterolo da parte del fegato, quello endogeno, per usare il termine tecnico, che è molto efficace. E quindi quando tu togli il colesterolo dagli alimenti, sbrigli, diciamo, potenzia al massimo in queste persone la capacità di sintetizzare colesterolo, e il colesterolo addirittura può aumentare. E questo è uno dei motivi per cui si vedono tanti, tra virgolette, fallimenti della dieta in persone che hanno questa particolare ipercolesterolemia congenita. Mi scusi, professore, quindi una domanda. Ho il colesterolo alto, mi metto a dieta, rimisuro il colesterolo. Mi sale. questo è un caso, è un segno. È un segno. Vuol dire che quel pizzico di colesterolo che tu introduci con la dieta non lo devi eliminare, perché è sufficiente a darti inibizione, per quel tanto che tu puoi avere, della sintesi del tuo colesterolo endogeno. Però queste persone, se avessero dei valori di colesterolo davvero alti, sono quelle persone le quali, avendo una produzione endogena molto elevata, dovrebbero prendere dei farmaci. Certo, e su questo arriveremo. Ma ci sono delle strategie, dei trucchetti, delle scelte alimentari che mi permettono di aumentare il livello del colesterolo buono, che così cerchiamo di rispondere a tanti messaggi? Allora, sempre per concludere col signore di prima, purtroppo il colesterolo può derivare anche dal mangiare troppi carboidrati. I carboidrati che non vengano consumati a scopo energetico, per fare energia fisica, e purtroppo si accumulano sotto forma di grassi e parte di questi può diventare colesterolo. Per cui questo signore purtroppo dovrebbe mangiare un po' meno pissarei e fasoi, ecco, tanto sì, per rimanere un piacentino. Ecco. O la coppa. E fare la coppa, purtroppo. Pane coppa. Esattamente. Per il colesterolo. Contiene anche tanti trigliceridi. Ecco, questa è una cosa importante. Dobbiamo ricordarci che il colesterolo cosiddetto cattivo, le LDL, sono un cestino in cui c'è sia il colesterolo che i trigliceridi. E di questo parleremo tra poco, perché è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Quindi introduciamo un altro elemento, i trigliceridi. E tra poco parleremo anche della lipoproteina A. Una sorta di terzo colesterolo, come se non ne avessimo abbastanza. Stiamo parlando di colesterolo, ma il discorso è caduto, era inevitabile, sui trigliceridi. Professor Dioguardi, molti messaggi arrivano, uno fresco fresco di Claudio: colesterolo ok, ma trigliceridi molto alti. Perché? Che relazione c'è tra questi due tipi di grassi? Ecco, sono due tipi di grassi. Come regola generale, i trigliceridi si formano più facilmente quando si mangino i carboidrati, dagli zuccheri è più facile formare trigliceridi, mentre invece quando si mangiano grassi, cioè gli acidi grassi, è più facile formare colesterolo. È una regola che vale quello che vale, ma giusto per dare un'idea. Ci sono, così come esistono persone che inviano tutto quello che non riescono a bruciare sotto forma di colesterolo lo trasformano in colesterolo bene, ci sono persone che tutto quello che non riescono a bruciare lo trasformano in trigliceridi, e il colesterolo è perfettamente normale, i trigliceridi sono alti. E in questo caso? Probabilmente questo è il caso, il signor Claudio. Anche in questo caso con la dieta in parte si può risolvere, o è più difficile rispetto al colesterolo? Il problema è più complesso da interpretare. Sì. Spesso è di grandissimo aiuto fare attività fisica, fondamentale, oltre a regolare la dieta, perché certo, chiaro, il signor Claudio vive mangiando profiterol e montagne di spaghetti, abbassare i trigliceridi è sarà dura. Molto difficile. L'alcol, per esempio, è una delle componenti fondamentali dello scheletro del trigliceride, quindi l'alcol purtroppo aumenta enormemente i trigliceridi, quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione. Sono più facili da abbassare, cioè esistono il famoso pesce di cui tu parlavi prima, contiene questi acidi grassi poliinsaturi che quali in effetti riducono la sintesi. Per il trigliceridi andiamo di pesce azzurro. E noi volevamo parlare di quello che è stato definito il terzo colesterolo, è la lipoproteina A. In linea con noi abbiamo la professoressa Maria Grazia Franzosi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Responsabile del Dipartimento di Ricerca Cardiovascolare dell'Istituto Mario Negri di Milano, che questo terzo colesterolo ha messo sotto la lente di ingrandimento. Ci sono i risultati di uno studio molto interessante. Professoressa Franzosi, ci racconti. Giusto per complicarci la vita, abbiamo messo il nostro interesse su il terzo, l'abbiamo chiamato terzo tipo di colesterolo. In realtà è una lipoproteina del gruppo, appunto, come le LDL e le HDL, gruppo delle sostanze che trasportano i grassi nel sangue. E in sostanza fino ad oggi non era molto, diciamo, messa sotto osservazione, non se ne era occupati molto. C'erano stati sospetti e anche prove non del tutto definitive che fosse correlata ad un aumento del rischio cardiovascolare, rischio coronarico, rischio di infarto, ma soltanto di recente si è riusciti a chiarire bene le cose. Questa ricerca che abbiamo fatto è una ricerca di tipo genetico con un gruppo, un consorzio europeo a cui hanno partecipato Inghilterra, Svezia, Germania e Italia, e abbiamo sostanzialmente correlato, definito insomma qual è il ruolo del genoma, del DNA in questa proteina. In sostanza abbiamo fatto una valutazione del DNA di 16.000 persone europee e isolato quelle che si chiamano le varianti del gene che diciamo produce la litoproteina A. Due di queste varianti sono risultate fortemente associate a un livello elevato di questa proteina e abbiamo visto che gli individui che hanno un livello elevato di questa proteina hanno anche un aumento di rischio di patologia coronarica e di infarti. In sostanza si è definito meglio il fatto che la litoproteina A è un colesterolo cattivo, cioè sì, molto simile alle LDL è determinato molto per la sua, diciamo, per il suo livello, è determinato dalla genetica degli individui. Chi ha certi varianti nel suo DNA, nel gene su un cromosoma 6, che è il gene della litoproteina A, chi ha queste varianti ha un livello alto nel sangue. Sì. E chi ha un livello più alto ha anche più rischio di infarto. Ecco, ma questi studi poi noi li leggiamo, magari se noi non siamo addetti ai lavori, allora adesso la lipoproteina A sta spaventando un po' tutti. E a noi erano già arrivate delle mail dicendo: ma il mio medico non me l'ha mai fatta misurare, e se fosse alta? Allora diamo anche, prima di salutarci, professoressa Franzosi, questa indicazione. Il fatto che voi l'abbiate studiato, a parte che è uno studio genetico, ma il fatto che voi abbiate indagato più a fondo le relazioni tra la lipoproteina A e il rischio di infarto non significa che tutti adesso noi dobbiamo andare dal medico di base e farci prescrivere l'esame per misurarla, giusto? Assolutamente no, anche perché il fatto che noi l'abbiamo indagata significa che è ancora oggetto di ricerca e che quindi il suo ruolo dovrà essere necessariamente meglio definito. Ecco, quindi possiamo dire: iniziamo ad occuparci delle cose che conosciamo. Esatto, anche perché come ho sentito anche dagli altri esperti, è chiaro che il ruolo diciamo, di questa proteina è marginale, cioè è il quadro di rischio complessivo delle persone che determinano il livello di rischio di malattia coronarica e di infarto, no? Bisogna considerare tutti i fattori insieme, l'LDL, il diabete, adesso non se ne è parlato, ma sono tanti i fattori che concorrono alla patologia, l'ipertensione, certo. E quindi questo è solo una componente in più che ecco, sarà opportuno tenere presente in futuro. Ecco, per il momento ve ne occupate voi, noi continuiamo a stare regolari con l'attività fisica e con la dieta e vi lasciamo alla lipoproteina. Buono studio e buona ricerca alla professoressa Franzosi, buonissima giornata. Grazie a tutti, arrivederci. Professor Diuguardi. La lipoproteina A è discussa, c'è un bellissimo editoriale del 97 su internet, su PubMed, è facile trovarlo. È particolarmente pericolosa perché è una proteina che è molto simile, il termine tecnico è polimero sequenziale, molto simile alla sostanza che noi produciamo per sciogliere i trombi, soltanto che è inefficace. Quindi che cosa fa? Inganna l'organismo, va a occupare i siti della stessa proteina che dovrebbe sciogliere i trombi, ma non li scioglie. Ecco, e quindi un po' come l'orchidea di cui parlava il nostro professor Mancuso. Degli scherzoni ai poveri insetti che rimangono delusi. Allora, vogliamo dare le ultime raccomandazioni? Abbiamo ancora un minutino di trasmissione che ce la giochiamo per fare un po' un riepilogo e dare indicazioni. Soprattutto io vorrei occuparmi di chi sta prendendo le statine, questi farmaci per tenere sotto il controllo il colesterolo, che vanno dati però solo in casi assolutamente selezionati. Professor Dioguardi, la facciamo in un minuto a parlare di statine? Allora, le statine sono dei farmaci molto potenti ed estremamente efficaci. Esistono un numero estremamente elevato di statine diverse, Ci sarebbe molto da dire sull'uso delle statine, sulla scelta delle statine. Ce ne sono di economicissime e molto efficaci, di costosissime ed estremamente efficaci. Non tutte hanno bisogno di quelle più costose ed, tra virgolette, enormemente efficaci. Penso che la maggior parte dei pazienti potrebbe tranquillamente essere trattato con statine economiche, vecchie, quindi di cui conosciamo i pro e i contro, che sono estremamente valide. E ricorrere a quelle molto costose solo quando queste falliscano. Volevo parlare un minimo di quali sono le controindicazioni delle statine. Bravo, è questo. 30 secondi per le controindicazioni, che sennò mi sfumano. Le statine hanno come unica controindicazione la possibilità di dare sofferenza ai muscoli, di fare danno muscolare. I motivi sono complessi, hanno a che fare con la produzione di energia da parte dell'ossigeno. Quelle persone che geneticamente sono predisposte a patire per le statine non le devono prendere. Segnali, e devono usare altri mezzi. Prendo le statine. Mi sento fiacco, aumentano le transaminasi, aumenta il CPK, corro dal medico, gli chiedo spiegazioni e le smetto. Ok, grazie al professor Dioguardi. Messaggio ricevuto. Se avete bisogno, essere benessere, @radio24.it. Domani, dopo il GR delle 11, io sono qua. Se ci sarete anche voi, mi farete felice. Buona giornata. Essere e benessere.